Ciao a tutte, siamo in collegamento con una compagna della consultoria autogestita di Milano che salutiamo, ciao. Perché Ciao, ciao a tutte. venerdì 14 aprile noi compagne della coordinamenta andremo in consultoria a presentare il nostro ultimo libro, Femminismo, paradigma della violenza non violenza. Però prima di tutto ci farebbe piacere avere da te aggiornamenti sulla consultoria, cioè cosa state facendo, come vi muovete, quali sono le cose che ritenete prioritarie adesso. Quindi ti passo la parola. Va bene, grazie. Allora, sì, intanto preciso che abbiamo riaperto la consultoria dopo qualche anno di stop, più o meno dal 2018, che c'è stata un'interruzione un po' per mancanza di forze, un po' perché fisiologico, e abbiamo deciso di riaprire a gennaio. E abbiamo riaperto, diciamo, lo sportello proprio, per cui l'apertura mensile, per adesso mensile, secondo mercoledì del mese, con l'obiettivo intanto di dare informazioni molto precise, almeno su Milano, e poi vedremo se riusciremo ad andare anche un po' fuori Milano, se non altro sulla Lombardia, ma principalmente su Milano dare informazioni e indirizzi utili rispetto all'accesso ai consultori, accesso agli ospedali, per quanto riguarda la sanità in generale, in particolar modo IVG, e tutte quelle problematiche o patologie come l'endometriosi, faccio un esempio, o anche comunque avere una ginecologa di riferimento. Allora, abbiamo fatto una mappatura, o comunque che è ancora in corso, in collaborazione con l'Extrambu, che è una realtà milanese che lavora negli ospedali di San Paolo e Niguarda. Appunto, stiamo cercando di colmare le lacune che abbiamo e di aggiornare questa mappatura, per cui diciamo c'è un aspetto che assolutamente non è di servizio, perché questo, insomma, ci tengo a specificarlo, che la consultoria riapre come spazio sì di informazione, di controinformazione, ma anche come spazio politico. E quindi da un lato daremo queste tipologie di informazioni che sono anche sul nostro sito, e per cercare appunto di indirizzare al meglio all'interno di quella che è la sanità lombarda, che è un gran, insomma, come sappiamo, non è proprio il fiore all'occhiello di cui si è sempre detto, e comunque c'è difficoltà all'accesso. E soprattutto vogliamo, come dire, dare un supporto a tutte quelle donne comunitarie e neocomunitarie, e quindi con, senza, documenti, con documenti, con tutti i vari codici di queste tessere che corrispondono, diciamo, ai nostri codici fiscali, che complicano l'accesso alla sanità, per le donne, straniere, soprattutto le neocomunitarie. E quindi questo è l'aspetto, diciamo, più di, come dire, di supporto e di informazione. Poi c'è l'aspetto che, questo abbiamo iniziato ormai invece dall'inverno scorso, di apertura di spazio di confronto tra donne e nel quartiere, per cui abbiamo fatto diverse iniziative, e con al centro la tematica comunque della cura, del corpo, delle migrazioni, e quindi poi di conseguenza un discorso anche un po' più ampio, Ecco, ovviamente, certo. ed è per questo anche che abbiamo deciso di presentare il libro Infatti nella questo. coordinamenta. Sì, dici tu allora. Niente, quindi tra le varie iniziative, leggendo il libro delle coordinamenta, ci è sembrato un buon strumento, e quindi il libro appunto ci interessa per tanti, perché secondo noi è molto ricco di spunti, approfondimenti, stimoli, domande aperte, riflessioni, espresse appunto in questa cornice del paradigma della violenza non violenza. Ci faceva piacere, volevo farti una domanda specifica, ci faceva piacere sapere che cosa secondo voi va privilegiato in questo momento di quello che c'è dentro il libro, per esempio. Allora, innanzitutto la chiave femminista, nel senso che ci sembra di aver capito dal libro che questo paradigma della violenza non violenza, quindi del, diciamo, del monopolio della violenza, e la chiave femminista con cui si va a leggere vari aspetti della realtà. Ovviamente noi come consultoria ci interessa anche tutta la questione della cura e della comunità, certo, ovviamente, perché c'è molto insomma, colpita, so, al di là che nel libro ci siano anche esperienze, appunto le Black Panther, le Rote Zora, tutta quella parte che parla invece di delega, di comunità, di cura, di senso collettivo, bene comune, e interpretata e anche con un occhio rispetto a quella che è stata la pandemia, che, certo, perché appunto i testi vanno da pre e post pandemia, questo ovviamente a noi interessa molto, sì, perché, sì, come consultoria ma anche come compagne, certo, quindi sicuramente questo è un focus che ci piacerebbe approfondire. Certo, a noi fa molto piacere questo, perché pensiamo che il confronto comunque sia importantissimo. Sì, certo, infatti speriamo che da quella giornata, intanto che sia partecipata, e poi appunto che gli vengano anche degli strumenti comuni, ognuna poi vive in un territorio diverso, in un contesto diverso, però capire se ci ritroviamo su, come dire, un'analisi comune, certo, degli obiettivi, una cassetta degli attrezzi, da femminista, con cui interpretare la realtà, ma anche poi come strumento pratico. Certo, perché noi ci siamo trovate anche, diciamo, in difficoltà, abbiamo fatto questo libro che ci siamo trovate in difficoltà rispetto a tutto quello che sia pre-pandemia che post-pandemia ci è stato calato addosso, che principalmente a tutto campo e in svariatissime maniere un sistema di controllo di tutta la vita. Esatto. Questo è importantissimo, tra l'altro appunto avremmo potuto dire, come autocritica lo faccio anche tanto come femministe, no? Durante la pandemia, e ci siamo un po' invece bloccate, non tutte ovviamente, però c'è stato un po' un silenzio, almeno sì, per me, sì, un sì, po' assordante, di tante voci femministe invece radicali, che il corpo è sempre stata la nostra materia, l'autodeterminazione è sempre stata la nostra chiave di lettura, la nostra pratica, e forse anche ricominciare da lì, no? Dalle nostre basi, e l'autonomia, le decisioni sul corpo, una riflessione anche su, cioè, veniamo tante di noi anche da battaglie contro le multinazionali, la scienza, che è chiaramente di parte, sembra che un po' poi nella fase pandemica tante abbiano un po' perso la bussola, no? Su argomenti, sì, che avevamo anche comunque già masticato, quindi siccome questo è anche legato, no, per dire, alla consultoria, ma anche a tutto l'ambito che abbiamo milanese di rete, di sportelli, certo, c'è anche l'ambulatorio, ci stiamo interrogando anche su queste cose, perché appunto noi facciamo parte anche di questa rete, certo, lombarda. E per cui ecco, questo ci interessa. Ecco, no, a noi infatti fa molto piacere venire in consultoria, proprio perché, a parte la lunga storia che ha la consultoria, e quindi ci fa un piacere enorme che sia in attività, abbia ripreso l'attività, e è un riferimento importante. E poi proprio per il taglio che è sempre stato dato dalla consultoria al fare politico femminista, insomma. Quindi siamo molto desiderose di confrontarci, e senti, se ribadisci magari l'appuntamento e i riferimenti anche del sito della consultoria. Certo, allora l'iniziativa sarà alla consultoria autogestita, che è in via dei Transiti 28 all'interno dello spazio dell'ambulatorio popolare. Inizieremo alle 8:30 con un piccolo, diciamo, aperitivo, e poi partiamo con la discussione. Il blog di riferimento è consultoria WordPress, no blog. Adesso guarda, mi cogli impreparata, perché è proprio la parte che io meno mastico, sì, però se si appunto digita sul web consultoria autogestita WordPress, Lo trova, compare, sì. compare. Va Sì. bene, allora E... sai, anche sul nostro blog c'è riferimento alla consultoria, proprio il Ecco, link del vostro, il vostro link, perfetto, il quindi nostro sito, il vostro simile. sito si trova subito, va bene. Va E bene, noi non vediamo niente. l'ora di vedervi e di parlare con Bene, voi. anche noi. Ah, ecco, ribadisco questa cosa perché me l'hanno chiesta, Dimmi. effettivamente non l'abbiamo specificata, che la iniziativa è aperta perché qualcuno in lista ci chiedeva appunto se era invece solo per donne, invece abbiamo deciso di farla aperta, quindi Semi comunque anche aperta, lì. va bene, questo lo Va bene. ribadiremo anche noi perché penso appunto che non ci sia specificato, quindi lo ribadiremo anche noi adesso nell'appuntamento. Noi vi ringraziamo tantissimo, ci vediamo a Milano e grazie di Mille. tutto. A Ciao, prestissimo allora. ciao, ciao, Ciao. ciao. Ciao.